il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Allegro e frizzante, lo sentirete sì, perché questo sottofondo vivace che sentite dall'inizio, cari ascoltatrici e ascoltatori, che siete in ascolto mentre viaggiate o siete a casa o fate altro, testimonia che questa è la puntata specialissima di Non ci sono più le mezze stagioni, qui dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che è il più grande evento dedicato ai libri d'Europa. È bello esserci, è bello anche se siete naturalmente in ascolto della radio. C'è qui anche un pubblico pronto naturalmente a intervenire tra pochissimo. Io li vedo già con la mano che lì tenuta a fatica, perché vorrebbero alzare la mano e intervenire subito. Sapete che l'argomento clou di Non ci sono più le mezze stagioni naturalmente sono le notizie della settimana, i commenti, lo spazio per ritornare come in una specie di tinello di casa, qui un po' più ampio, a commentare i fatti della settimana che più vi hanno colpito. Devo dire che le notizie sono moltissime anche in questi giorni, naturalmente c'è di mezzo la cosa centrale di questa settimana, la campagna elettorale, ma cercheremo di glissare perché sapete che c'è il silenzio elettorale, quindi evitiamo quell'argomento. Ma poi ci sono state, continua naturalmente la scia delle polemiche, dei misteri eccetera legati alla fine di Bin Laden, Gheddafi, anche lui molto misterioso, che è sparito, non si sa dove sia finito. Poi questione in buona parte conseguente, l'emergenza immigrazione, ancora tanti barconi che continuano ad arrivare a Lampedusa, il paventato terremoto a Roma, ma mi pare che per il momento non sia successo nulla, il terremoto in Spagna col lutto nazionale, insomma tante cose, ma ci sono alcune notizie che magari vi hanno colpito in modo particolare rispetto a delle altre. Il numero verde per telefonare, se no il pubblico presente naturalmente può semplicemente alzare la mano, è 800 24 00 24. Devo dire, visto che questo è il rito sempre con le mie ascoltatrici e ascoltatori, è quello di dire ogni volta perché non ci sono più le mezze stagioni, giustificare insomma questo titolo della trasmissione. Direi questa volta che non ci sono più le mezze stagioni perché io mi trovo circondata da due begli uomini. Non ci sono davvero più le mezze stagioni perché sapete che i begli uomini ormai sono solo in Parlamento, ci sono le brutte donne in Parlamento e i begli uomini, è pieno di begli uomini naturalmente. E l'altra cosa che ce lo conferma, che non ci sono più le mezze stagioni, gli uomini sapete, insomma, poi macismo, devono fare i duri, eccetera. Invece i due uomini che ho accanto hanno scritto due bellissimi libri d'amore, tutte e due. Tra poco li andrò a presentare. C'è anche un terzo uomo, ma poi vediamo, un ragazzo che poi si farà, che poi magari dopo presentiamo più in là. Ma intanto io direi, signore e signori, ospiti, opinionisti estemporanei, direi di questa puntata. Alain Elkann. Benvenuto Alain. Grazie, benvenuti a voi. Otello Carno, sì. Il libro che hai scritto, questa storia di questo scrittore che cerca l'amore, il suo, di solito sono le donne, no, che dedicano una vita alla ricerca dell'amore, invece in questo caso è un uomo, e questa è una cosa un po' particolare di cui parleremo tra pochissimo. Alain, vado all'altro opinionista estemporaneo che è Franco Di Mare, caro Franco. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio, siamo sì, alle 14:14. Grazie di avermi invitato. Franco Di Mare, Alain Elkann, anche lui non ha bisogno di presentazioni, giornalista, scrittore, volto televisivo, bookstore sulla 7, la seguo tutte le mattine il sabato prima di venire in trasmissione, è proprio il mio appuntamento. Com'era quella fisso di stamattina? Quella di stamattina no, perché ero già in giro per Torino con il treno, quindi poi mi dirai tu, mi racconterai tu. Franco Di Mare, che è stato inviato di guerra per tanto tempo della RAI, per amore hai smesso di fare l'inviato, è vero? È vero, sì. Per amore, questi uomini sono tutti presi dall'amore, e poi volto invece di Uno Mattina e di altre trasmissioni televisive. Popolari, un tipo di giornalismo un po' diverso da quello dell'inviato, ma non meno bello. Insomma. E il tuo libro si intitola Non chiedere perché, di Rizzoli, Otello Carno invece di Alain Elkann, per Bompiani. Ma prima di parlare dei vostri libri, vorrei sapere, Alain, la tua notizia della settimana qual è? Se tu dovessi commentare una cosa in particolare... Il Salone del Libro di Torino. Il Salone del Libro di Torino. La notizia sembra... cos'è? Che crescono i lettori, stranamente. Si dice che in Italia non legge più nessuno, però no, sembra che il dato buono... No, la notizia è che ci sono degli amici russi quest'anno e che c'è uno scambio molto importante e, come sappiamo, gli italiani conoscono bene la letteratura russa e i libri russi. Quindi questa è già una notizia. E poi moltissimi giovani ragazzi... che vanno, vengono, comprano libri, li sfogliano, ne parlano, e questa è sempre una festa. Io dedico la mia vita ai libri perché li scrivo, li scrivo, ne parlo in televisione, via dicendo, e quindi per me la festa dell'anno nella mia città è la fiera del libro. Invece Franco Di Mare, La tua notizia della settimana qual è? È la notizia del mese, forse la notizia dell'anno, è la notizia di una mancata relazione che potrebbe diventare una relazione stabile. D'amore anche questa? Beh sì, d'amore, anche di sofferenza e anche di difficoltà, che è quella dell'immigrazione. Ah. È un tema ed è un problema con il quale dobbiamo fare i conti, è una necessità, è una cosa dalla quale non si può prescindere. Ma è un'opportunità straordinaria. Ecco, allora cerchiamo subito di valutare questo aspetto. Poi intanto, scusa, faccio una premessa con gli ospiti, con il pubblico presente. Allora, o entro 5 minuti qualcuno alza la mano perché vuole intervenire, o siccome mi sono fatta dare le cuffie volanti, io vengo in mezzo a voi con un colpo di fulmine, quello che mi attrae subito, e faccio una domanda, mi raccomando. Quindi qualcuno si presti. Io vedo già quel signore con i baffi e il pizzetto che è lì un po' scalpitante. Dopo devo... Franco, dicevamo, quindi, visto che in tanti siamo a dire naturalmente che bisogna accoglierli con umanità, che sono flussi migratori sicuramente grandi rispetto al passato, che però in qualche modo bisogna gestirli, giustamente si chiede anche l'aiuto all'Unione Europea, in che modo può essere un'opportunità? Visto che magari a volte è difficile cogliere questo aspetto. Allora, intanto la gran parte degli immigrati che nel nostro paese con regolare permesso di soggiorno, ma anche quelli che sono qui senza regolare permesso di soggiorno, fanno lavori che gli italiani non vogliono fare più. Noi abbiamo bisogno di infermieri, per esempio. Le unità sanitarie locali hanno bisogno di infermieri, c'è un bisogno di speranza. E la maggior parte sono stranieri, vogliono fare soltanto gli stranieri questo lavoro. E non è detto che lo facciano meno peggio di quanto non lo facciamo noi, o magari anche meglio. Ma il punto vero è un altro. Il punto vero è che è scoppiata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tutta questa polemica intorno agli immigrati, il dramma degli immigrati, il problema degli immigrati, in realtà riguarda 25.000-30.000 immigrati che sono entrati in modo drammatico con i barconi nel nostro paese. Facciamo un minimo di conti, sì, ma rapidissimamente. Sì. La Germania ha 8 milioni di immigrati regolari e 600.000 stabili, con regolare permesso di soggiorno, che lavorano lì da generazioni, e 600.000 profughi. I profughi sono quelli che hanno il permesso di soggiorno temporaneo e che magari vengono da situazioni drammatiche di guerra o di disagio. Quindi sono 600.000. Abbiamo riempito la Germania di bosniaci durante la guerra in Bosnia, o di kosovari, non lo dimentichiamo. Certo. Beh, in Francia ci sono 6-7 milioni di immigrati stabili con regolare permesso di soggiorno. Quindi questo vuol dire da noi in realtà ne arrivano pochi, e 400.000 profughi. Quello che voglio dire è che 20.000 immigrati, tanto rumore per nulla. 20.000 profughi sono un problema se sono tutti a Lampedusa. Se vengono distribuiti nell'arco dei migliaia di comuni che abbiamo in questo paese, ma tu vuoi che comuni come Torino non siano in grado di prendersi 3 immigrati del Maghreb? È in grado lei, visto che la tua città, Torino. Ma io volevo dire una cosa, non lo so, no, io non faccio questo mestiere, non so se è in grado o non è in grado, tutti sono sempre in grado o non in grado. Ma cosa ne pensi della questione? No, io penso che dobbiamo pensare che meno di 100 anni fa quegli immigrati eravamo noi, andavamo a Staten Island in America in condizioni peggiori, e credo che fossimo più di 20.000 gli immigrati. Bravo. Qualcuno dice italiani. Gli Stati Uniti erano più grandi, allora, no, e quello che è straordinario è che il nostro paese in meno di 100 anni è diventato un paese che accoglie e non un paese che deve andare. Quindi nella mia teoria sul bicchiere mezzo pieno e non sempre mezzo vuoto, le cose qui non vanno sempre così male come noi le dipingiamo. Il paese Italia ha fatto un balzo in avanti notevolissimo, e anche grazie alla presenza in Europa, che sì, forse quando svalutavamo e poi c'erano delle... ma oggi siamo uno dei grandi paesi europei in una struttura che è l'Europa, e chiaro, se siamo geograficamente in quella condizione passano da Lampedusa, ma poi prima o poi verranno smistati, dice, anche verso l'Europa, in vari luoghi. Senti, ma è giusto accogliere, ed è soprattutto formidabile non essere più, purtroppo, come sono loro oggi, un paese di immigranti disperati come erano gli italiani fino a poco tempo fa. Tra poco sentiamo anche una telefonata all'800240024 su questo argomento. Se c'è qualcuno, prima che venga io a prendervi direttamente e a portarvi sul palco, che vuole intervenire sull'argomento immigrazione, se no darei la parola a questo punto a un giovane promettente, che è qui, Stefano Andreoli, l'autore di Spinoza.it, il blog di satira più frequentato della rete. Questo mi dice sempre di dirlo lui, io poi non ho mai verificato che sia veramente così. Uno dei tanti autori, ricordiamo che Spinoza è un collettivo che ogni giorno fa un notiziario satirico su quello che accade nel mondo. C'è questa lista di politici che io non posso dire, dunque ricordiamoli. No, Stefano, abbiamo detto che si va nel penale. Sono rimasti solo Cavour e Gorbaciov che io posso nominare. Comunque, diciamo, Spinoza, un sito di satira collettiva, alcuni degli autori sono anche qui presenti in platea. Oggi casualmente presentiamo il secondo libro tratto da Spinoza. È un caso, è un puro caso che ci troviamo. Che alla fine della trasmissione potrete assistere per il pubblico presente, sto parlando alle vostre spalle, allo spazio autori, alle ore 15. Ma salutiamo anche gli ospiti. Franco Di Mare, grande inviato, grande anche scrittore, è passato dal TG1 alla letteratura, sempre nel campo della fiction rimaniamo, mentre Alain Elkann con questo nuovo romanzo Otello Carno l'hai letto, spero, prima di giudicare. Me l'ha appena dato, io ora farò finta. Parla di questo hotel, una città svizzera, io pensavo trattasse del divorzio tra Berlusconi e l'Alario. Ma è il romanzo su uno scrittore in crisi, chiaramente non è autobiografico perché Alain Elkann pubblica 3 libri all'anno, quindi sicuramente non è il suo caso. Mi hai escluso dai Begli Uomini e te la farò pagare. No, adesso io devo dirlo ufficialmente, perché è mio ospite fisso, qualcuno si farà venire anche un sospetto perché Stefano Andreoli è mio ospite fisso. Adesso non voglio dirlo in termini un po' beceri, c'è la tresca, però diciamo che un certo feeling si è creato. A te piacerebbe, caro Roberto, e avremo una mezza intenzione, adesso lo dico qua, visto che abbiamo parlato dei vostri libri d'amore, adesso approfondiremo, che presto ufficializzeremo questo fidanzamento che potrebbe far impallidire William McCabe. È diciamo una cosa di facciata, però, chiaramente. Di facciata, chiaramente. Perché ognuno poi ha la sua vita un po' poco raccontabile. Insomma. E, allora, io direi di cominciare a far intervenire, poi parliamo sia del libro di Alain Elkann che di Franco Di Mare. Maurizio dalla provincia di Vicenza, all'800240024. Maurizio, mi dici solo il titolo, poi dopo la viabilità ritorniamo e approfondiamo la tua notizia. Maurizio. Pronto? Sì, Maurizio, ci senti? Volevo chiederle una cosa. Come mai le carrette del mare che sono così portano solo morti e problemi, come mai non vengono fermate a Lampedusa? Ma fermate come, Maurizio? Con le mitragliatrici? Come devono essere fermate? Le lasciano ritornare? No, vuote, le lasciano ritornare? Non è così. In che senso? Tu vorresti farle ritornare piene? Arrivano piene e dici le rispediamo indietro? Non hai capito. Cioè, navi arrivano, le barche arrivano e poi ritornano vuote di là a riprendere degli altri clandestini. Non è così. Non è così, dice Franco Di Mare. No, non è così. A Lampedusa c'è un posto che lo chiamano il cimitero delle carrette del mare. Queste barche vengono... Le rottamano praticamente. Sì, vengono rottamate. C'è un posto a Lampedusa così. Ahimè, purtroppo c'è anche il cimitero dei senza nome a Lampedusa, dove ci sono sepolti migliaia di corpi recuperati in mare. Sono già oltre 1000, credo. 800240024, quindi tra poco ci sarà Ilaria e poi ancora con Alain Elkann e Franco Di Mare. Qual è la vostra notizia della settimana? Tra poco vedo dei signori che se ne vanno. No, scusate, lei ha una notizia della settimana? Mi dica solo la notizia della settimana. Solo di gastronomia parla. Possiamo parlare di qualche piatto qui di Torino? Qual è un piatto a parte la bagna cauda? Non è tanto la stagione, non è la stagione, il vitello però, tonnato in questo vitello momento. Tonnato, proprio di Torino il vitello tonnato. Insomma, sì. Vogliamo, intanto vi ricordo il numero per intervenire, 800240024, sulle notizie della settimana. Tra poco, per esempio, vi chiederò cosa ne pensate della figura di Napolitano. Questa settimana il Presidente del Consiglio Berlusconi ha chiesto più poteri per il Premier e meno per il Quirinale. E io ho raccolto da ieri due editoriali, diciamo, sul tema. Uno di Ernesto Galli della Loggia dal Corriere della Sera, che dice effettivamente negli anni il ruolo istituzionale che più si è trasformato è quello del Presidente della Repubblica, è diventato effettivamente molto potente, mentre su Repubblica hanno scelto di parlare del grande consenso che la figura del Presidente della Repubblica raccoglie in questo periodo. Addirittura leggevo che il suo consenso è superiore a quello dei sovrani in Europa. Pensate, però, ecco, cosa ne pensate per esempio voi? Il Presidente della Repubblica, anche su Facebook, la pagina dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni, c'è stato molto riscontro a un argomento di questo tipo e tutti invece sono per lasciare i pesi e contrappesi così come ci sono nella nostra democrazia, lasciare i poteri al Presidente della Repubblica così come li ha. Cosa ne pensate voi? Cosa ne pensa Alain Elkann, per esempio? Bisognerebbe in qualche modo contrarre, diminuire i poteri del Presidente della Repubblica a favore del Presidente del Consiglio, o ti sembra equilibrato così com'è? A me sembra comunque che negli ultimi anni la figura e la statura dei Presidenti della Repubblica sia molto cresciuta. e che il Presidente della Repubblica è un punto di riferimento importante al di sopra delle parti per i cittadini italiani, quindi è una figura di equilibrio nelle... vedete che ci sono molte risse, molte cose tormentate in Parlamento, nel governo, eccetera, e il Presidente della Repubblica ha un ruolo sopra le parti che rassicura molto gli italiani. Poi ultimamente abbiamo avuto dei presidenti eccellenti. In questi rientra Napolitano? Certamente Napolitano è un presidente che non aveva un inizio facile, perché il presidente Ciampi era molto popolare, eccetera, e credo che invece lui, non so se è più popolare, ma è riuscito ad avere un livello perlomeno pari ed è guardato con molta stima e ammirazione per la sua eleganza, non solo come uomo, anche è un uomo elegante, un uomo che sa parlare, che sa rispettare molte cose, cioè si occupa delle cose più umili, ma è anche un uomo di cultura che ha un grande rispetto per la cultura e la storia del nostro paese, e quindi è vicino un po' a tutto, insomma, dai più diseredati ai musei, è un uomo, questo va detto, perché è raro nella classe politica dirigente italiana, che parla molto bene le lingue straniere, ha amici, gli altri sono un po' maccheronici, ha amici in tutto il mondo, e quindi sa esprimersi in inglese, in francese, altre lingue, essendo una persona intelligente e di bell'aspetto, rappresenta molto bene il nostro paese. È di bell'aspetto, quindi almeno il Presidente della Repubblica è di bell'aspetto, Franco Di Mare, ed è anche, insomma, una figura istituzionale. Secondo te ha dei poteri equilibrati o dovrebbe un po', diciamo, delegarli anche al Presidente del Consiglio? No, io non credo, ma intanto per aggiungere qualche cosa a quello che diceva Lennio Cano con grande acume, il Presidente della Repubblica era uno degli uomini più eleganti di Napoli, quando è napoletano. E quando i napoletani sono eleganti, sono proprio eleganti. Diciamo, tu che sei di Napoli, credo, te ne intendi? Insomma, io l'ho avuto il piacere di conoscerlo anni fa, lui mi dà del tu, penso, io svengo ancora al pensiero. Ma devo dare del voi allora. No, ma il punto è un altro, è che io sono assolutamente d'accordo con Alain Elkann. I presidenti sono un baluardo e una difesa contro alcuni dirazzamenti recenti, e non solo recenti, anche diciamo così, di interpretazioni estese della Carta Costituzionale così com'è. Io credo che però tutto questo è avvenuto, questa crescita del potere del Presidente della Repubblica, cioè della Costituzione materiale rispetto alla Costituzione scritta, se è avvenuto, è avvenuto perché in passato noi abbiamo avuto governi che non sono mai durati la loro legislatura naturale. 5 anni, diciamo. Appunto, nessun governo, o pochissimi governi, hanno coperto l'arco della loro legislatura naturale, e allora è evidente che davanti a questi governi, molto spesso ballerini, molto spesso zoppi, molto spesso balbettanti, la figura istituzionale a cui si faceva sempre più riferimento era quella del Presidente della Repubblica. Quando a questa figura istituzionale si associa anche poi uno spessore, un livello umano, politico e culturale di grande impatto, come da Pertini in poi abbiamo avuto, ecco che il Presidente della Repubblica diventa punto di riferimento del paese intero, spesso sconcertato davanti a certi episodi politici. Allora, sentiamo il paese intero, che in parte è rappresentato anche qui. Devo venire a prendervi o c'è qualcuno che dice la sua sull'argomento? Cosa pensate? C'è un signore qui con tanti capelli che forse vorrebbe dire la sua. Roberta, parla piano, potresti svegliarli, è un problema. Ah, potrei svegliarli. C'è gente che sta riposando, sta passando la protezione civile. Adesso li vengo a svegliare io subito. Di conforto, un famoso acqua. Giornalista, Ventura, che stava lì seduto. Ventura, non diciamo... Cosa ne pensiamo del Presidente della Repubblica? Non ha voce? Non può? È una questione di par condicio? Ventura, abbiamo la... Presidente o immigrazione. Chi è che vuole intervenire? Qua. Qua, ecco, infatti l'avevo, ce l'avevamo guardati negli occhi senza conoscerci, ma ci avevamo capiti, insomma. Presidente o immigrazione? Come ti chiami? Graziano Di Benedetto. Presidente o immigrazione? L'argomento... Presidente, tu sei d'accordo? Ha troppi poteri, dovrebbe delegarne un po' più al Presidente del Consiglio? No. O ti sembra come figura... Non dovrebbe delegare al Presidente del Consiglio, assolutamente no. Anzi, il Presidente della Repubblica... In questo caso, e anche gli altri del passato, rappresentano sicuramente un baluardo, uno scoglio difficilmente superabile, ecco, un simbolo di democrazia. Insuperabile nel senso come autorevolezza, in senso buono, eccetera, come autorevolezza e come personalità, nel senso che loro devono garantire ciò che abbiamo già già stabilito negli anni, ecco, non devono permettere comunque lo di alcune situazioni che in questo momento si stanno. C'è il gelato che ogni tanto va e viene. Il gelato non è. Di queste situazioni che si stanno comunque, che stanno cambiando, ecco, è una difesa contro dei cambiamenti un po' troppo repentini e bruschi. Sei stato bruschi. Chiarissimo, Graziano. Okay. Il signore che ha un gelato vero in mano, che non è quello del gelato, poi ritorniamo all'800240024, mi sembra che non fosse molto, molto d'accordo. Scambiamo un attimo il gelato, questo in cui si parla, e l'altro ce lo le chiamo dopo. Come ti chiami? Fabio. Fabio, non sei d'accordo? Assolutamente. Qual è la tua opinione? Rispetto Napolitano, perché ritengo sia un presidente in gamba, lo ha già dimostrato quando era presidente della Camera molti anni fa. Non concordo assolutamente con i presidenti della Repubblica che lo hanno preceduto. Cioè parli della sua grandezza che è incomparabile? No, del ruolo che rappresenta. Il ruolo dei precedenti, in particolare di Scalfaro, non mi sembra sia stato assolutamente mai sopra le parti. Come lo accusa in parte il centrodestra, no? Di questa cosa. Credo che sia. Però Napolitano, così com'è, riconosci il consenso che dice addirittura i sondaggisti dicono superiore a tanti sovrani in Europa? Ti sembra che possa meritare questo consenso, Napolitano? Diciamo, in parte si può accettare questo punto di vista. Credo che Napolitano rappresenti, rispetto a quella che potrebbe essere la figura istituzionale, diciamo normale, forse un passettino in più su alcune cose. Sono cresciuti i suoi poteri, vuoi dire? Sì, sì. Va bene, allora intanto noi siamo veramente. Tu vuoi. Roberta, prego, scusami. Sì. Scusami, Roberta, però. Stefano Andreoli. Io, se posso spezzare. Vicino due uomini come Elena il cane e Franco Di Mare, a volte ho bisogno di dire che non sono d'accordo. Cioè, per una volta ha ragione Berlusconi. Cioè, questo Napolitano che si fa un po' i suoi porci comodi, si blocca i processi, insulta omosessuali, donne. Sì. Cioè, bisogna fermarlo e ha ragione Berlusconi. Limitiamo i suoi poteri. I suoi poteri. Si può ogni tanto chiudere anche il microfono a Stefano Andreoli, no? Nel caso dicesse delle cose un po'. Abbiamo tra pochissimo la pausa, però io non so se qualcuno si ricorda, adesso parliamo subito, come ti chiami? Cosimo Durante. Cosimo. Tra pochissimo interveniamo anche con Cosimo e gli ascoltatori al telefono, ma voi sapete che questo è l'unico programma ad avere un collegamento diretto con un altro pianeta, nel senso che non ci raccontiamo soltanto le opinioni tra noi terrestri, ma qualche volta sentiamo anche un punto di vista un po' più alto, più extraterrestre. Prego. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, scrutando come sempre il globo terracqueo col fido telescopio, si ha come l'impressione che le repliche del Circo Barnum non finiscano mai, un po' su tutta la Terra ormai, perché come si dice da tempo è tutto globalizzato, c'è la globalizzazione. E così, per esempio, si scopre che pure Mr. Bin Laden, naturalmente, aveva nel suo arsenale anche il Viagra, oltre a tutte le armi, al quale si affidava fiducioso come un qualunque cittadino americano, come un qualsiasi politico italiano, tutto il mondo è paese, insomma. A proposito dell'Italica Penisola, si scopre in questi giorni che l'essere gay costituisce una patologia che può risultare di pregiudizio per la sicurezza della guida di un'auto, al pari praticamente di chi assume droga o alcol. Per questo motivo un giovane gay di Brindisi, poi mi direte da laggiù cosa ne pensate, si è visto negare il rinnovo della patente. Vuoi vedere che essere omosessuali conferisce un costante stato di indecibile ebbrezza? E quindi non lo dite troppo in giro, perché poi altrimenti lo vogliono diventare tutti e nessuno più guida. A breve comunque si attende il divieto di guida per chi ha troppi peli sulle gambe, che potrebbero del resto annodarsi a pedali e tappetini. Ma cosa succede a proposito nel luogo deputato di deputati e di senatori, deputato a decidere delle magnifiche sorti e progressive dell'Italico stivale? Altro che Circo Barnum, il Parlamento tra gente che non si lava, donne che oltre che poche sono pure un po' racchie, specie quelle di una parte politica, e agopuntori sembrerebbe il Parlamento, dicevo, una corte dei miracoli. Ma attenzione. Una profezia di un sismologo, data per molto attendibile, prevede che entro qualche tempo, in data da destinarsi, un terremoto politico spazzerà via tutti gli uomini bruttarelli o perlomeno non avvenenti dal Parlamento, lasciandolo quindi, potete immaginare, praticamente quasi deserto, e volatilizzando soprattutto quelli che, nonostante nasi prominenti, stempiature, pance ridondanti, posteriori flaccidi e peli esondanti da naso e orecchie, si sentono belli e impossibili. Bello, bello impossibile, con gli occhi. macchine nel tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei. E ritorniamo qui sulla terra con tanti ascoltatori che sono ancora in linea. Ilaria da Trapani all'800240024. Ilaria, e tra pochissimo abbiamo un'altra pausa. Ilaria, qual è il tuo argomento? Buonasera a tutti, io ciao, volevo solo ricordare che oggi, il 14 maggio, fa un esatto mese dalla morte di Vittorio Arrigoni, sebbene il corpo sia stato ritrovato il 15, lui era già morto. La notte l'attivista italiano che era in Palestina, sì. Esatto, e proprio oggi, voi siete a Torino, insomma io sono a Trapani, non ci potremo andare, ma c'è la grande manifestazione della Freedom Flotilla a Roma, a partire proprio da questi minuti in piazza. In Piazza della Repubblica interverrà anche Vauro, che sappiamo come sia stato, diciamo, molto attento, diciamo, a queste tematiche. Quindi era questa, Ilaria, ci volevi ricordare questa cosa dell'attivista di Gaza. Alen, allora dicevamo, il tuo libro è una storia, non si sente molto dal microfono, si sente? Perfetto, Alen? Bene, bene. Bene, bene, bene. Dicevamo, il tuo libro in modo inconsueto, anche se ci sono tanti uomini che scrivono d'amore, è... la storia di uno scrittore alla ricerca, insomma, dell'ultima occasione di poter amare. È questa un po', in sintesi? No, Otello Carno è, sì, uno dei personaggi, che è un storico dell'arte, non si rassegna a delle storie banali, finite, e poi dire, beh, basta così, no? Va avanti, cerca altre donne. È stato anche sposato, tra l'altro. Sì, però non va bene, perché scopre che questa moglie vuole altro da lui, vuole... e quindi risponde a un annuncio su un giornale di un'altra donna, Gloria, che anche lei in qualche modo non accetta la disperazione. È vedova, però ha solo 60 anni, vuole ancora vivere e divertirsi e incontrare l'amore. E quindi mette un annuncio sul giornale. Lui risponde, si danno appuntamento vicino all'Otello Carno, perché l'Otello Carno è poi il posto dove lui andrà, a Roma, e poi nascerà qualcosa di molto bello. Lo lasciamo in sospeso, naturalmente. Sì, però ecco, io quello che voglio dire, in questo libro ci sono varie sfumature d'amore, nel senso che questi due personaggi, per esempio, sono due stranieri, lei un inglese, lui un australiano che vive in America, amano moltissimo l'Italia, quella che noi spesso disprezziamo. Napoli in particolare, Napoli, che in questi giorni che non è la Napoli dei bufera. Rifiuti e della bufera, ma che è la Napoli dei musei meravigliosi, che è la Napoli del Teatro San Carlo restaurato, che è la Napoli di Castel dell'Ovo, del Maschio Angioino, del Golfo di Napoli, dello stare bene, no? Perché loro amano molto l'amore e nei loro amori amano anche l'Italia. Quindi in questo libro la ricerca dell'amore, il parlare d'amore è dovunque, perché, lo dico nella quarta di copertina importante, era la storia di un uomo che ricercava l'amore come via d'uscita dalla disperazione. Per Michael l'amore era al di sopra di ogni cosa, delle guerre, della politica, dei soldi, perché in effetti sono convinto che a qualunque età, da bambino fino a 90 anni... Quindi anche per gli uomini questa è una priorità, a volte si pensa per sempre le donne. Tutti, uomini, certo. Donne, giovani, mezza età, vecchi... senza amore la vita non significa niente, cioè è solamente un fare. Invece, Alen, nel libro di Franco Di Mare, l'amore, c'è l'amore anche lì. L'amore paterno. L'amore, ma l'amore paterno è un grande amore. È per un questo frugoletto. Che ha successo molto il libro di Franco Di Mare, perché come il tuo, vi siete scambiati, vi siete pagati da bere. No, perché l'amore paterno è anch'io. È una forma d'amore. È un grande amore. Il tuo è un inviato di guerra. È un inviato di guerra che ha una storia distrutta alle spalle, esce da un matrimonio fallimentare e quindi, come tutte le persone separate da poco, non crede più a niente. È una persona piena di amarezze, piena di delusione, piena di rancori, e con questo bagaglio, con questo fardello pesante, accetta una missione quasi suicida, una missione difficilissima. Nel 92 non era come oggi, Stiamo parlando della Bosnia, della guerra all'ex Jugoslavia, sì, no? Oggi noi inviati andiamo in guerra con le auto blindate, i giubbotti antiproiettili, insomma una serie di cose che dovrebbero tutelarci, non riescono a tutelarci, ma insomma con un qualche aggancio, con qualche paracadute in più. Lui invece accetta una missione difficile, una missione impossibile, perché è quasi una missione suicida. Dice: perché no, nessuno ci vuole andare, ci vado io. E va in questo posto pieno di rancore, pieno di dolore, convinto che insomma l'unica salvezza sia il suo lavoro, e invece trova la salvezza lì dove salvezza non c'era, lì dove era impossibile trovare appigli, proprio nell'amore, ma non in un amore per una donna o per una persona adulta, ma diciamo. L'amore per una bambina. Però ha ragione Alain Kahn a dire che l'importante è amare, poi chi si ama, certo, su questo siamo assolutamente d'accordo. Voglio dire, la famiglia, il collante dei rapporti di una famiglia, dicono le famiglie sono esplose, cioè, l'amore non sono i soldi, la carriera, ma no, è tutto importante, perché però se non c'è amore non c'è veramente vita. Mi sento se fortunata. Se non ami il tuo paese, non ami niente, se non ami te stesso, non ami gli altri, se non hai l'amore per te, non puoi avere una passione d'amore per un altro. Mi pare che siamo tutti d'accordo, anche nel pubblico. 800... Ma non bisogna avere paura di dirlo. No. Di dire il numero verde. Non bisogna avere paura di amore e di amare o bravo, di essere bravo, amati. Bravo. Cioè, chiediamo se c'è qualcuno che ha paura di amare o di essere amato tra il pubblico. C'è qualcuno? Devo venire a prenderlo io, che magari vedo un po' sfuggente. Adesso arrivo. Io dopo questo sfoglio... Dopo questo sfoggio di saggezza, Stefano vorrei... Andreoli, che... L'amore è importante, bisogna amare. L'amore è importante. Venezia è bella, ma non ci vivrei. Non ci sono più le mezze stagioni e altri concetti pregnanti. Comunque, ci tenevo a sottolinearlo. Molto bene. 800 24 00 24. C'è Hassan da Verona da un sacco di tempo, quale chiedo perdono, ma essendo qui al salone tutto così gremito di persone, pieno di appuntamenti, cioè, ogni tanto ci si perde. Hassan, grazie della pazienza. Buongiorno Hassan. Agli italiani e anche agli immigrati. Sì, di dove sei, Assante? Sono da Verona. Voglio condividere il discorso che hanno fatto per l'immigrazione quelle signore, quelle due signore. Sì. Hanno ragione veramente di tutto quello che hanno detto. E un'altra cosa, non dobbiamo... Cioè dell'accoglienza, del fatto che sia anche un'opportunità, sì. Questo dicevi, sì. Assante. Tu da dove vieni, Assan? A parte che chiami da Verona. Ma sono dal Marocco. Dal Marocco. Ho 24 anni che sono qua. In Italia ormai è... Sono 24 anni e ti senti italiano? Ti senti italiano, sì, a questo punto? Sì, ho cittadinanza italiana, sono integrato benissimo, giocavo a pallone, facevo l'allenatore anche qua, adesso faccio anche l'arbitro amatoriale, anche se l'ho fatto un po' tardi, io e mio figlio che ha 21 anni, nato qua a Ardigliano. Io ricordo l'epoca lì, quando ho venuto a Ardigliano... Dimmi una cosa, San, scusa se ti interrompo. Adesso forse i tempi sono un po' cambiati rispetto a quando sei venuto tu, forse era un'immigrazione anche un po' più sporadica, a volte persone che cercavano sì una vita un po' migliore, ma che non erano così disperati come gli immigrati, i barconi che arrivano adesso. Tu hai avuto forse un approccio diverso anche col nostro paese? Sì, io la verità ho avuto molta fortuna qua in Italia. Sono stato neanche 24 ore clandestinamente, perché è arrivato a Genova in 24 ore... Sono venuto al Veneto qua e trovato lavoro in conceria, ho fatto 18 anni, però un lavoro che non fanno gli italiani, ha ragione quel signore che l'ha detto, nessuno li vuole. Franco Di Mari. Senti, ma adesso che lavoro fai? Continui a fare quel lavoro, Hassan? No, la conceria? No, è stata mobilità per fortuna, ancora fortuna, ho trovato lavoro, adesso mi sto benissimo. L'importante è che tu stia bene. Lavoro a Verona, una ditta di polli. Grazie, San. Grazie, San, della tua testimonianza. Adesso io volevo, però, siccome abbiamo parlato di Napolitano. Roberto, un immigrato che viene in Italia a fare l'arbitro, cioè come se non li insultassero abbastanza, ma rendiamoci conto, merita veramente un applauso. Molto bene. Volete fare un applauso? Un applauso ad Hassan? Grazie. Ecco, un applauso per Hassan, siete molto buoni. Molto... Adesso, prima della viabilità, però, che mi danno stanno dando, volevo un... questa è anche l'unica trasmissione che si collega ogni settimana per dimostrarvi un po' come vanno le cose in Parlamento. Abbiamo parlato di Napolitano, della campagna elettorale sulla quale però dobbiamo glissare. Siccome Napolitano ha detto anche questa settimana che la politica non diventi una lotta continua, una guerra continua, vogliamo collegarci col Parlamento e sentire finalmente qual è l'atmosfera rilassata in questo momento. Lo vogliamo sentire? Stanno... siamo un po' eccitati forse, che dici Franco? Speriamo più, grazie, abbiamo in Europa sentito. L'abbiamo già vista una cosa del genere, in Spagna con il capitano Tejero che entrò in Parlamento con una pistola e sparò due colpi in aria, per fortuna tutto finì. Poi dopo a Taraluccio e vino, ma insomma fu un brutto momento. Ma dici che è possibile una cosa del genere? No. Però proprio. Diciamo sono un po' esagitati, forse tutti questi moniti di Napolitano che dice a lei, ogni tanto potrebbe avere anche efficacia i suoi moniti, invece sono sempre un po' sopra le righe questi. Ma sai, è un paese paradossale questo, dove la politica non interessa nessuno e tutti non fanno altro che parlare di politica e vedere dei programmi sulla politica. È vero questo, se la politica non è più politica, è spettacolo, no? È una forma di spettacolo italiano, è la commedia dell'arte di oggi. Mi pare un'ottima definizione, è diventata molto più attraente, più attrattiva del Grande Fratello dei reality. Che fanno la politica. È un reality che supera la realtà, in realtà. Tutto, no? Supera la realtà. Il problema è sapere cos'è la realtà oggi, per quello che noi nei nostri libri parliamo di sentimenti, parliamo di amore, perché quella è una realtà importante, imprescindibile, il resto sono spettacolo, quindi la politica come spettacolo, come commedia dell'arte non è male. Mi piacerebbe poi sentire anche qui gli spettatori, le spettatrici, tra poco Cosimo, che già voleva intervenire prima, Cosimo, scusa, ma mi ricordo bene anche il tuo nome e il tuo intervento. Per non parlare di politica non abbiamo parlato che di Napolitano. No, adesso ne parliamo, lei. Abbiamo parlato del tuo libro che è Hotel Locarno, del libro di Franco Di Mare, Non chiedere perché. Ma che cosa succede nel libro di Franco Di Mare? No, chiediamo che cosa succede nel libro di Spinoza, che tra poco se ne va. Mi è toccato averlo qui, quindi facciamogli dire l'ultima cosa. Parlaci di Spinoza. Chi era Spinoza? Era un grande pensatore olandese che invitava a prendere la vita con letizia e con gaiezza, e noi ci ispiriamo a lui per fare satira, quella che è satira. Io mi stavo domandando, Roberta, sì. Tu oggi in redazione pensiamo, abbiamo il pubblico, facciamo una puntata spumeggiante, sì. Su chi la facciamo? Su Napolitano. La prossima la facciamo sui cactus, no. Sulle patate lesse. Vabbè, mi sembra che adesso argomenti. Che Napolitano sia esagerato, le patate lesse, esagerato, non è così. Vabbè, scherza, allora io direi un argomento importante. Allora, anche questa cosa che si citava prima la marziana da Marte, no? Sapete la notizia di questo ragazzo di Brindisi di 27 anni, mi sembra che non ha visto rinnovata la patente, come era successo a un altro ragazzo di Catania, perché sui suoi documenti di quando ha fatto il militare c'era scritto che era omosessuale. Quindi dicono, siccome è comparabile al fatto di assumere droga o alcol, non gli danno la patente. Cosa ne pensi, Elena, tu di una cosa del genere? Ma non ho parole, cioè il fatto che uno sia omosessuale sono soprattutto fatti suoi. Può guidare, però, dici, è in grado di guidare. No, non ne parlerei, lo trovo disdicevole parlarne, Franco? E non è neanche spiritoso. Può guidare, non nessuno, neanche in una trasmissione satirica, perché un omosessuale è una persona come un'altra, forse un ippopotamo non può guidare se non ha la patente. Però gli vogliamo dare anche un po' di, di risonanza a questo ragazzo, allora, che non sia, rimanga chiuso lì la sua vicenda. Guarda, io direi che questa persona che ha fatto questa scelta di evitare di dare la patente a questo ragazzo gay è una persona a cui mancano alcuni fondamenti della conoscenza, e siccome dal latino mancanza si dice deficere, è un deficiente. Scusa, è venuto proprio applauso così molto spontaneo. Da parte un applauso lo possiamo fare anche a Franco Di Mare. Cosimo, siccome tra poco abbiamo un appuntamento, intanto Davide dalla provincia di Pisa, tu preparati con il gelato. Davide dalla provincia di Pisa, puoi essere sintetico con la tua notizia della settimana, perdonami. Pronto? Sì, eccoci, proprio sì. Riesci in 33 secondi. 33 secondi, sì, ecco, la mia esperienza con dei ragazzi immigrati in una scuola serale di Pontedera è bellissima. Io a 41 anni sto condividendo questa bellissima storia nei corsi serali scolastici, e ci tengo a dire che sono corsi pubblici, e vedo tante realtà, tanti ragazzi che si stanno impegnando e che magari vengono dall'estero già con un diploma. Grazie Davide, non lo sappiamo che tanti sono anche laureati, questo per dare una visione un po' più completa e complessa anche del fenomeno. Mentre chiedo a Lena il Cano con il suo Hotel Locarno, a Franco Di Mare con il suo Non chiedere perché, tra pochissimo a Spinoza, di trovare una conclusione a questa puntata, voglio fare un intervento velocissimo con la nostra Valeria della Valle, la mia linguista preferita della Sapienza di Roma, che ha scritto anche lei un libro, Viva la Grammatica, Franco Di Mare. Ti saluta e ti conosce e ti saluta, Valeria. Senti, io ti butterei lì una parola che è stata ripetuta molto in queste due ultime settimane, compound, per dire la casa dove abitava, la casa, diciamo così, di Bin Laden, Valeria, non si può dire la palazzina, la casa un po' sbilenca, il condominio, magari ha avuto anche un po' di problemi di condominio, le solite riunioni, Valeria. Compound è stato tradotto giustamente come complesso residenziale, anche se poi di residenziale aveva ben poco. In questa maniera, ecco che una nuova parola ora è conosciuta anche dagli italiani. La cosa buffa è che se lo cerchiamo sui dizionari inglese e italiano troviamo che in realtà poi compound vuol dire anche altre cose, le quali campo di concentramento, quindi insomma quasi un po' un valore premonitorio. Per concludere, la parola compound ora la conoscono molti più di quanto non la conoscessero prima, e a questo punto aspettiamo solo che venga scoperto il compound in cui si nasconde Gheddafi. Viva la grammatica di Valeria Davanti, è stata presentata qui a Torino, e vi consiglio di leggere perché è veramente un compendio, non è un compound, ma un compendio da mettersi in tasca con tutte delle cose molto curiose. Cosimo, tu riesci in 21 secondi a dire quello che pensi, qual è la tua notizia della settimana? Sì, molto interessante per quanto riguarda la questione Napolitano. Io ritengo che è veramente un presidente super partes, e dopo Pertini è il grande presidente di tutti. Il richiamo in occasione dei 150 anni all'umiltà, soprattutto da parte degli amministratori, ma soprattutto un fatto importante, quello di Franco, che fa riferimento agli immigrati. Noi dobbiamo continuare ad essere ponte di speranza, ma soprattutto ritornare ed incitare alla grammatica dei sentimenti. Grazie. Abbiamo parlato di grammatica da vari punti di vista, quindi chiedo ai miei ospiti, Franco Di Mare, con il tuo libro Non chiedere perché, ti devo chiedere perché? No, in realtà vedi, in amore non c'è bisogno di chiedere perché è la domanda sbagliata. In amore bisogna chiedersi piuttosto come e quando, e se non ora, quando. Ma è fantastico, un uomo così va sposato, sei già sposato però. Alcune speranza. Volte. Alain El Khan, Otello Carlo. In Otello Carlo ho detto, si parla dell'amore, che l'amore è la vita, non si può prescindere da questo. Vorrei dire che con Pound, io pensavo fosse con Pound il poeta, leggiamo i canti di Cantos di Pound, che è un grande poeta, e vorrei dire, avendo parlato di emigrati eccetera, questa frase: gli altri non esistono perché siamo noi. Gli altri siamo noi, quella è anche una canzone molto bella. No. E quindi non abbiamo sempre questo tono accondiscendente e patetico. No. No, gli altri, no, siamo noi tutti. Eravamo così, loro siamo così. Siamo gli altri per altri, noi avanti. È una cosa. Stefano, una ricordatevi che l'amore degna, nella vita. Una risata vi disseppellirà, Spinosa, una battuta sola: sempre meno italiani chiamano il proprio figlio Silvio. Ormai Muccino sta sulle balle a tutti. Va bene, grazie. Anche a Stefano Trovali, Spinosa.it, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.